Ad alta voce, Elia Shilton legge Il soccombente di Thomas Bernard. Mi avvicinai di un paio di passi alla finestra della cucina, pur sapendo già da prima e dicendomi in cuor mio, dalla finestra della cucina non vedrai mai niente, perché, come ho detto, si trattava di una finestra sporchissima da cima a fondo. Tutte le finestre delle cucine austriache sono sporchissime, e attraverso di esse non si vede niente, e questo, pensai, è naturalmente un grandissimo vantaggio, perché in caso contrario si guarderebbe direttamente dentro la catastrofe, nell'urido caos delle cucine austriache. Così ritornai di nuovo indietro di quel paio di passi che avevo fatto in direzione della finestra della cucina e rimasi in piedi nello stesso punto in cui ero stato per tutto quel tempo. Glenn è morto, pensai, nel momento per lui più favorevole, mentre Wertheimer non si è tolto la vita nel momento per lui più favorevole. Chi si toglie la vita non se la toglie mai nel momento per lui più favorevole, mentre la cosiddetta morte naturale arriva sempre nel momento più favorevole. Wertheimer, oltre a imitare Glenn, pensai, aveva voluto esibirsi davanti alla sorella e, siccome voleva farle pagare tutto, si era impiccato a soli 100 passi dalla casa di lei a Zitzers. Ha comprato un biglietto ferroviario fino a Zitzers nei pressi di Coira, poi è arrivato a Zitzers e a 100 passi dalla casa di sua sorella si è impiccato. Dell'uomo trovato impiccato non è stata riconosciuta la vera identità per vari giorni. Solo 4 o 5 giorni dopo il suo ritrovamento, un impiegato dell'ospedale di Coira era rimasto colpito dal nome Wertheimer. Aveva collegato il nome Wertheimer con la moglie del padrone del complesso chimico da lui conosciuta in precedenza come signora Wertheimer. Dopodiché, essendosi incuriosito, si era informato a Zitzers se esistesse un qualche legame di parentela tra il suicida di nome Wertheimer, che giaceva nell'obitorio, e la moglie del padrone del complesso chimico che risiedeva a Zitzers. La sorella di Wertheimer, la quale non sapeva neppure che a distanza di 100 passi da casa sua un uomo si era impiccato, era subito corsa all'obitorio di Coira e aveva, come si suol dire, identificato il fratello. I conti di Wertheimer adesso tornano. Per la maniera in cui si è suicidato e per il luogo che ha scelto per il proprio suicidio, Wertheimer ha precipitato sua sorella in un senso di colpa destinato a durare tutta la vita, pensai. E questi erano conti adatti a Wertheimer, pensai. Ma facendoli si è ridotto in uno stato pietoso, pensai. Già partendo da Traich aveva in mente di impiccarsi a un albero a 100 passi dalla casa di sua sorella, pensai. Un suicidio lungamente premeditato, pensai, non un atto repentino di disperazione. Da Madrid non sarei certo partito per Coira per assistere al suo funerale, pensai, ma trovandomi a Vienna a recarmi a Coira mi era sembrato ovvio, e da Coira raggiungere Traich. Adesso però avevo giustamente i miei dubbi e pensavo se, malgrado tutto, non sarebbe stato meglio che da Coira fossi subito ripartito per Vienna senza far tappa a Traich. Al momento non sapevo bene neanch'io che cosa a Traich fosse venuto a cercare, al di là del volgarissimo appagamento della mia curiosità, dato che da solo mi ero messo in mente e da solo mi ero convinto che qui ero davvero necessario. Insomma, avevo finto con me stesso di essere indispensabile. Certo, non l'ho detto alla sorella di Wertheimer che ho intenzione di andare a Traich, e in effetti a Coira questa intenzione ancora non l'avevo. Soltanto in treno mi era venuta l'idea di scendere ad Atnang Puchheim per raggiungere Traich e di passare la notte a Vanham, come sempre avevo fatto ogni volta che in passato mi ero recato in visita a Trai, pensai. Ho sempre pensato, un giorno mi recherò al funerale di Wertheimer. Non sapevo quando, come ovvio, ma ero sicuro che prima o poi quel funerale ci sarebbe stato, anche se di questa mia idea non avevo mai parlato con nessuno, soprattutto non avevo mai parlato con lo stesso Wertheimer, mentre lui, Wertheimer, mi aveva detto spessissimo che un giorno lui si sarebbe recato al mio funerale. A questo pensai, mentre ancora aspettavo la padrona della locanda. E in cuor mio ero sicuro che un giorno Wertheimer si sarebbe tolto la vita per tutti quei motivi che io avevo sempre presenti davanti a me. Come risultato con chiarezza, la morte di Glenn non è stata sufficiente a provocare il suo suicidio. È stato necessario che la sorella lo abbandonasse. Seppure la morte di Glenn è stata l'inizio della sua fine, l'elemento scatenante è stato il matrimonio di sua sorella con lo svizzero. Wertheimer aveva cercato di salvarsi camminando senza posa su e giù per Vienna, ma questo tentativo è fallito. Salvarsi non era più possibile. Fallito è il tentativo di salvarsi visitando i quartieri operai da lui tanto amati nel 20° e 21° distretto, la Brigittenau soprattutto la Kaisermühlen, il Prater con le sue oscenità, la Zirkurgasse, la Schüttelstrasse, la Radetzkystrasse, eccetera, eccetera. Per mesi Wertheimer aveva camminato su e giù per Vienna, notte e giorno, fino a quando era crollato. Quel continuo camminare non serviva più a niente, ma anche il casino di caccia a Trai, da lui inizialmente considerato un luogo nel quale avrebbe potuto salvare la propria esistenza, anche il casino di caccia si rivelò un inganno. Come so, da principio egli si barricò nel casino di caccia per 3 settimane, poi si recò dai boscaioli e li molestò con il suo problema. Ma il fatto è che le persone semplici non capiscono le persone complicate e con più spietatezza di chiunque altro le inducono a ritirarsi in se stesse, pensai. L'errore più grande che possiamo fare è credere che le cosiddette persone semplici siano in grado di salvarci. Ci rivolgiamo a loro in uno stato di angoscia estrema, li imploriamo letteralmente di salvarci, e quelli invece ci spingono ancora più a fondo nella disperazione. E come potrebbero, pensai, salvare un individuo stravagante dalla sua stravaganza? Dopo essere stato abbandonato dalla sorella, pensai, Wertheimer non aveva altra scelta se non quella di togliersi la vita. Voleva pubblicare un libro, ma non c'è riuscito perché ha seguitato a modificare il suo manoscritto. Lo ha modificato talmente spesso che alla fine di quel manoscritto non è rimasto più nulla. In realtà i cambiamenti del manoscritto altro non erano che la totale cancellazione del manoscritto stesso, di cui alla fine non è rimasto che il titolo, che era Il soccombente. Ormai non ho nient'altro che il titolo, diceva a me, e questo è un bene. Non so, aveva detto, se avrò la forza di scrivere un secondo libro. Non credo. Se fosse uscito Il soccombente, così diceva, pensai, sarei stato costretto a togliermi la vita. D'altronde Wertheimer era un uomo da schede. Riempiva migliaia, decine di migliaia di schede, le quali si accumulavano nella casa del Kohlmarkt, non meno che nel casino di caccia di Trai. Forse, pensai, sono proprio le schede ciò che più ti interessa e ti ha indotto a scendere ad Attnang-Puchheim. O forse è stata solo una tattica dilatoria perché Vienna ti fa orrore. Allineare migliaia delle sue schede una accanto all'altra, pensai, e pubblicarle sotto il titolo Il soccombente. Che assurdità! La mia valutazione era che tutte quelle schede a Trai e a Vienna Wertheimer le avesse distrutte. Non lasciar tracce è stata infatti una delle sue massime. Quando un amico muore, noi lo inchiodiamo alle sue stesse massime, dichiarazioni. Lo uccidiamo, insomma, con le sue stesse armi. Da un lato egli continua a vivere in ciò che nel corso della sua vita ha detto a noi e agli altri. D'altro lato, con quelle stesse cose, noi lo uccidiamo. Non c'è nessuno più spietato di noi contro di lui nell'usare le sue dichiarazioni e i suoi appunti, pensai. E quando non disponiamo più dei suoi appunti, perché lui assai saggiamente li ha distrutti, allora per annientarlo ricorriamo alle sue dichiarazioni, pensai. Noi sfruttiamo l'eredità di cui siamo venuti in possesso per annientare ancora di più colui che ce l'ha lasciata, per uccidere i morti ancora di più. E se di qualcuno non è rimasta un'eredità che si presti ad annientarlo, allora semplicemente noi ci inventiamo delle dichiarazioni da usare contro di lui e così via, pensai. Gli eredi sono crudeli, i superstiti non hanno il minimo riguardo, pensai. Andiamo in cerca di testimonianze che possano danneggiarlo avvantaggiando noi, pensai. Arraffiamo tutto quello che può essere usato contro di lui per migliorare la nostra posizione, pensai. La verità è questa. Wertheimer è sempre stato un candidato al suicidio, ma ha lasciato scoperto il suo conto. Avrebbe dovuto togliersi la vita vari anni prima rispetto a quando si è in effetti suicidato, molto prima che morisse Glenn, pensai. Perciò il suo suicidio è imbarazzante, un atto meschino, soprattutto per il fatto che si è tolto la vita proprio davanti alla casa di sua sorella a Zitzers. Questo lo pensai soprattutto per far tacere la mia cattiva coscienza, che ancora non era riuscita a superare il fatto di non aver risposto alle lettere di Wertheimer, di averlo abbandonato in maniera pressoché ignominiosa. Infatti era soltanto una volgare menzogna che io non potessi lasciare Madrid. Quella menzogna l'avevo detta per non dovermi consegnare al mio amico, il quale si aspettava da me, oggi me ne rendo conto, l'ultima possibilità di sopravvivenza, il quale, prima di uccidersi, aveva scritto a Madrid 4 lettere che io avevo lasciato senza risposta. Soltanto dopo aver ricevuto la sua 5ª lettera gli scrissi che ero impegnatissimo, che non potevo assolutamente mandare a monte il mio lavoro per un viaggio in Austria, quale che fosse lo scopo di questo viaggio. A lui avevo anteposto il mio lavoro su Glenn Gould, quel tentativo fallito che appena sarò tornato a Madrid, pensai, ora getterò nella stufa, essendo un lavoro del tutto privo di qualsiasi valore. Ho abbandonato Wertheimer in un modo ignominioso, pensai. Gli ho voltato le spalle nel momento della pena estrema. Ma ricacciai con veemenza il pensiero di essere io in qualche modo colpevole per il suo suicidio. Non gli sarei comunque più servito a niente, mi dissi. Non avrei potuto salvarlo. Senza dubbio, a quel punto Wertheimer era maturo per il suicidio. La colpa andava certo attribuita ai suoi studi superiori, pensai, studi superiori di musica per di più. In primo luogo all'idea di poter conquistare nella maniera più semplice e con la massima rapidità possibile quella celebrità per la quale, come ovvio, un istituto superiore di musica è un ideale trampolino di lancio, idea che avevamo avuto tutti e tre, Glenn, Wertheimer ed io. Ma solo Glenn ha realizzato il progetto che avevamo accarezzato tutti e tre. Glenn, in definitiva, pur di raggiungere il suo scopo, ha sfruttato anche noi, tutto ha sfruttato, sia pure inconsapevolmente, pur di diventare Glenn Gould, pensai. Noi, Wertheimer ed io, avevamo dovuto rinunciare al pianoforte per spianare la strada a Glenn. Questa idea a quell'epoca non mi era sembrato affatto così assurda come oggi mi appare, pensai. Glenn era comunque già il genio quando giunse in Europa per frequentare il corso di Horowitz, mentre noi in quello stesso periodo già eravamo i falliti, pensai. Io in fondo non avevo intenzione di diventare un virtuoso del pianoforte. Per me il Mozarteum, con tutti i suoi annessi e connessi, era stato solamente un pretesto per sottrarmi alla noia che in effetti provavo nei confronti del mondo, per sottrarmi al mio precocissimo tedio esistenziale. E Wertheimer in fondo si comportò come me, e da noi due non è venuto fuori nulla di buono, come si suol dire, proprio perché a noi non è neanche venuto in mente di voler diventare qualcuno. Al contrario di Glenn, che voleva ad ogni costo diventare Glenn Gould e al quale mancava soltanto di venire in Europa e sfruttare l'insegnamento di Horowitz per poter essere un genio. Essere un genio capace, per così dire, di strabiliare il mondo col pianoforte era ciò che Glenn aveva desiderato e bramato più di ogni altra cosa. L'espressione strabiliare il mondo mi rallegrò e intanto continuavo ad aspettare la padrona della locanda, la quale, come pensai, si trovava dietro la casa ed era probabilmente occupata a dar da mangiare ai maiali, a giudicare dai rumori che venivano dal retro della casa. Io, personalmente, non avevo mai sentito il bisogno di strabiliare il mondo, e nemmeno Wertheimer, pensai. La testa di Wertheimer era più simile alla mia che non la testa di Glenn, pensai, il quale ha inalberato con sicurezza assoluta una testa da virtuoso, a differenza di Wertheimer e di me, che eravamo entrambi teste raziocinanti. Ma se adesso dovessi dire che cos'è una testa da virtuoso, non sarei in grado di dirlo, esattamente come non saprei dire che cos'è una testa raziocinante. Wertheimer non ha fatto amicizia con Glenn Gould, mentre io sì. Solo quando io mi ero avvicinato a Glenn e avevo fatto amicizia con lui, solo allora Wertheimer si è unito a noi. E in fondo Wertheimer è sempre stato emarginato rispetto a noi. In ogni caso, noi tre, questo si può dirlo veramente, abbiamo creato un'amicizia per la vita, pensai. Wertheimer ha recato grave danno a sua sorella per il solo fatto di essersi tolto la vita, pensai. Quel buco provinciale di Zitzers dovrà sempre tener conto d'ora in avanti che lì si è suicidato il fratello della moglie del padrone del complesso chimico, pensai. E la sfacciataggine di essersi impiccato proprio di fronte alla casa di sua sorella continuerà a essere per lui un doloroso peso. Wertheimer non era certo il tipo a cui potesse importare minimamente un funerale solenne, pensai, ma a Coira, dove è stato sepolto, non avrebbe comunque mai potuto averlo. Non a caso il suo funerale si è svolto verso le 5 del mattino e, a parte gli uomini di una ditta di pompe funebri, eravamo presenti soltanto la sorella di Wertheimer, il marito di lei ed io. Mi era stato domandato, stranamente, dalla sorella di Wertheimer se volessi vedere Wertheimer ancora una volta, ma io avevo subito detto di no. Quella proposta mi aveva disgustato, come del resto l'intera cerimonia e coloro che vi avevano preso parte. Avrei fatto meglio, pensai adesso, a non andare fino a Coira per il funerale. Dal telegramma che mi aveva spedito la sorella di Wertheimer non era possibile arguire che Wertheimer si fosse tolto la vita. Era solo indicata l'ora dei funerali. Da principio avevo pensato che egli fosse morto mentre era in visita da sua sorella. Mi ero ovviamente stupito all'idea di una simile visita, dato che non potevo immaginare nulla del genere. Wertheimer non si sarebbe mai recato a Zitzers in visita da sua sorella, pensai. Egli punì sua sorella con il castigo più tremendo, pensai, le distrusse il cervello per sempre. Il mio viaggio da Vienna a Coira durò 13 ore. I treni in Austria sono ridotti in uno stato pietoso. Nei vagoni ristoranti, ammesso che ne venga attaccato uno, si riceve un cibo veramente pessimo. Con davanti un bicchiere di acqua minerale volevo rileggere dopo 20 anni i turbamenti del giovane Turles di Musil, ma non ci sono riuscito. I racconti non li sopporto più. Dopo aver letto una pagina già non sono più capace di andare avanti. Le descrizioni non le sopporto più. Né potevo d'altra parte passare tutto il mio tempo con Pascal. I suoi pensieri li conoscevo a memoria e il piacere del suo stile si esaurì in breve tempo. Perciò mi accontentai di osservare il paesaggio. Le città fanno un effetto desolante quando ad esse si passa davanti col treno. Le case dei contadini sono tutte rovinate dal momento che i proprietari hanno tolto le vecchie finestre per mettere al loro posto delle finestre in plastica nuove e di pessimo gusto. A dominare il paesaggio non sono più i campanili delle chiese, ma i sili di plastica importati dall'estero, le torri mastodontiche dei magazzini. Il viaggio da Vienna a Linz è un viaggio attraverso il cattivo gusto. Ovunque non c'è altro che cattivo gusto. e il tratto da Linz a Salisburgo non è migliore, le montagne del Tirolo mi opprimono. Il Vorarlberg l'ho sempre odiato, come la Svizzera, dove l'ottusità è di casa. Mio padre lo diceva sempre e io su questo punto non l'ho mai contraddetto. Ad alta voce, Elia Shilton ha letto Il soccombente di Thomas Bernhard. A cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per ascoltare e scaricare il programma radio3.rai.it.